Mix 24 di Giovanni Minoli. Tanguy Getz è un ragazzo brillante e determinato. Ha 28 anni e vive ancora con i suoi genitori. Originally! Io me ne vado da questa casa perché siete due vecchi. Sì, hai bisogno di soldi? È normale che ho bisogno di soldi. Che faccio? Li prendo da sopra l'albero? Grazie, mami. Sparisce. Va bene. Ma gli esisti gli stati contro dei ragazzi o no? Io non sarò eterno. Bisogna fare una cosa che voi non avete mai fatto. Cioè? Lavorare. Sì, ok, adesso non esageriamo. Insomma, figli che non se ne vanno di casa e che pretendono di essere mantenuti dai genitori all'infinito. Secondo la Doxa, nel 2007 quelli che non abbandonavano la casa erano il 61%. Oggi siamo arrivati al 66% e tra questi sono 8.000 l'anno i figli che fanno causa ai genitori per vedersi riconosciuto il diritto ad essere pagati, insomma la paghetta, nonostante un'età che supera oramai abbondantemente i 25 anni. E nella maggior parte dei casi vincono loro, vincono i figli. Ecco, avvocato Daniele Romeo, fino a che età i genitori hanno per legge l'obbligo di mantenere i figli? La legge purtroppo non prevede un'età specifica. Però la legge stabilisce che i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Ecco, inclinazioni e aspirazione vuol dire tutto e niente. Vuol dire tutto e niente. È importante sapere che questo è un principio che è sancito nella nostra Costituzione. All'articolo 30 c'è proprio un dovere da parte dei genitori di assecondare, di mantenere, eccetera, i figli. D'accordo. E dopodiché, naturalmente, ogni figlio sceglie all'interno del proprio nucleo familiare il percorso da intraprendere e su questo deve essere sostenuto. Ecco, ma io le faccio un esempio. Se mio figlio vuol fare il cantante, devo pagare e mantenerlo finché non vince X Factor o Sanremo? Teoricamente no, ma praticamente questo accade nel nostro ordinamento. Noi dobbiamo capire che l'obbligo non si può interrompere se non per motivi che devono essere comunque dimostrati e devono avere un impatto forte all'interno del nucleo familiare. L'unico motivo è che diciamo che la responsabilità relativa alla non indipendenza del figlio deve essere attribuibile al figlio in qualche maniera con una sorta di dolo. Allora le faccio un esempio. A Modena, lo sappiamo, tutti i giornali ne hanno parlato, un padre ha chiesto al tribunale di eliminare l'assegno di mantenimento al figlio 28enne che a suo dire non ha fatto scelte nella linea di andare verso un'autonomia. Ecco, è una richiesta lecita quella del padre? Secondo me quella richiesta era lecita. E lì il tribunale, diciamo, che ha trovato una soluzione dicendo che e la scelta che voleva fare il figlio di prolungare il suo percorso universitario, cioè sostanzialmente di frequentare un corso di cinematografia sperimentale, il tribunale ha ritenuto che quel corso sperimentale rientrava in linea con quello che era il programma che aveva già intrapreso attraverso la laurea, che credo che fosse già arrivato al terzo anno lì, allora le faccio un altro esempio che viene da Rovereto. Un'universitaria che non ha fatto neanche un esame e non lavora, il padre paga, deve continuare a pagare? Il padre deve continuare a pagare fin quando non riesce a dimostrare che lì c'è un'inerzia che è attribuibile a una volontà specifica. Certo, perché se uno non dà neanche un esame. Il dovere di assistenza va rispettato, poi spesso questi doveri di assistenza sono gestiti attraverso delle sentenze e quindi poi ci sono anche delle sanzioni per chi non rispetta queste sentenze, poi si rientra in un ambito penale. Ecco, ma queste vertenze coinvolgono soprattutto i genitori separati? Assolutamente sì, la quasi totalità delle questioni, delle problematiche giuridiche che nascono perché proprio si inseriscono all'interno di cause di separazione. Certo. C'è un genitore economicamente più forte che viene condannato a pagare un assegno mensile per il mantenimento dei figli e molto spesso questo assegno mensile viene gestito dall'altro genitore. Certo. Da cui scatta poi un problema di strumentalità rispetto alla questione reale. I figli possono diventare, anzi diventano, uno degli strumenti di battaglia economica fra i genitori. Purtroppo accade così spessissimo. Sempre. Questo accade spessissimo, perché nel momento in cui si rompe un vincolo, diciamo, familiare, anche se poi la famiglia non è che viene meno completamente, però si spezza un legame familiare di solidarietà e di mutua assistenza, succede che i figli vengono strumentalizzati per avere dei vantaggi, certo, economici. E quindi l'orientamento della giurisprudenza è che i genitori, separati o no, sono sempre tenuti a pagare per il figlio, anche se è un po' fannullone e bamboccione. Assolutamente, si tende a proteggere i figli perché non farlo significherebbe andare contro un principio costituzionalmente garantito, e quindi bisognerebbe trovare dei motivi fortissimi per superare, diciamo. Naturalmente questo deve essere valutato caso per caso. Ecco, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, raccontarci le vostre esperienze o di genitori o di figli, 349 238 6666 per gli sms. Ecco, Mario, la legge non c'è, però è un problema di legge oppure è un problema di educazione? Cioè, nello specifico, i figli vengono tutelati sempre, perché è educativo questo? No, mi spiace, io sono, ho un'opinione controvento. Una società di mammoni che riguarda i grandi, il mammone non, certo, riguarda i piccoli, non può che produrre poi questi fenomeni. Poi c'è un dato che è la crisi economica, ma quello è normale. Qua stiamo invece affrontando le crisi economiche sono anche cicliche, diciamo. Questo è un problema strutturale, di culturale, secondo me, di inerzia. Insomma, io conosco un sacco di gente che non fa niente, e gli sta bene così. Ecco, però non è sempre stato così. Una volta i figli venivano fatti studiare, anche con sacrifici da parte dei genitori, e ripagavano in qualche modo questa opportunità con gratitudine, riconoscenza e anche partecipando alle spese della famiglia. Adesso è il contrario, pretendono e basta. È così, Pietrangelo? È così perché è venuto meno un equilibrio. I genitori non hanno più un ruolo educativo figurarsi patrimoniale, e come nei divorzi i coniugi prosciugono i rispettivi patrimoni, così in assenza di distacco formale, immaginiamo un'eventuale battaglia legale tra i genitori e i bamboccioni, si disperde quello che deve essere poi il ruolo, quello di far tramandare non soltanto i valori, non soltanto i principi, non soltanto l'educazione, ma anche la sostanza di quella che una volta veniva definita la roba. È venuto meno il padre, è venuto meno la madre, è creato un capovolgimento tale per cui ci si sente tutti uguali. Ecco, l'errore di sentirsi amici e uguali. Uno non è amico dei figli, è padre e madre. Paolo da Parma. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Lei è genitore o figlio intanto? Io sono genitore e sono stato figlio. Beh, naturale, immagino che non sia stato nato sotto un cavolo. Esatto. Diciamo che io mi è venuta una parola in mente proprio lampante. Io vado contro corrente in base ai miei coetanei, perché 32 anni, diciamo. La parola è proprio quella che, anche se prima mattina, a calci in culo, ma si può dire. Giusto. Lei ha 32 anni e quanti figli? Praticamente due, uno è in arrivo, quindi sono, due. Ecco. Ma li ha presi o pensa di darli calci in culo? Entrambe le cose. Questo è il messaggio che tramanda, mi sembra molto preciso. Questa è un'esperienza che positiva, con affetto. L'ho capito, chiarissimo. Mi hanno dato un grande insegnamento, nel senso che io a 21 anni sono stato praticamente invitato ad uscire di casa, a trovarsi un lavoro. È capitata l'occasione di un appartamento vicino a casa, eccetera. Naturalmente mi trovavo i panni stirati al mattino, quindi è un andare fuori casa comodo, diciamo. Però posso dire questo, che è una cosa poi naturale, che dopo sei mesi la fidanzata diventa una compagna, che dopo si comprano i mobili, che poi si cambia il televisore, che poi si mette su famiglia. Io che lavoro fa lei? Poi faccio anche un lavoro particolare. Io faccio il rappresentante e non ho uno stipendio fisso. Io parto da zero. È un imprenditore di se stesso. Secondo me una delle cose che fa stagnare la situazione è anche un pochettino questa, perché movimenta un po' tutto. Va bene, abbiamo capito, mi sembra molto interessante la sua storia. Ne sentiamo un'altra di storia, quella di Claudio, un figlio particolare, un po' diverso. io ho 46 anni a settembre, pur avendo 20 anni di carriera lavorativa, firmato una valanga di contratti come insegnante di scuola pubblica, precario ovviamente, ho un blog di viaggio e quindi qualche mese all'anno me ne vado in Africa o in Asia o in Europa da solo con i miei soldi. Insomma, nonostante un'attività incredibile, quindi una voglia e anche una pratica molto forte di uscire non solo da casa, tutto questo casino, lei mi sta chiamando, io sto rispondendo ancora dalla mia cameretta, 46 anni a settembre, e questa è una roba che io credo che, cioè io ho una laurea scientifica in mano, ho un curriculum, io ho vissuto e lavorato in Trentino, in Piemonte, in Liguria, in Emilia Romagna, mi sono preso qualsiasi supplenza, però non sempre io ho un lavoro e non sempre viaggio, non ho la forza economica di avere un mio appartamento, il 90% dei miei familiari, conoscenti, amici, davanti ad uno che comunque ha una laurea scientifica e invece vuole fare l'insegnante, che comunque in Italia quasi tutti considerano come un lavoraccio, non c'è riconoscimento sociale, non c'è mai stato, mentre invece io gli unici soldi che ho portati a casa, quando li ho portati in quegli anni, erano dalla scuola pubblica, un'infamia, perché poi il bello era che quando io tornavo a casa, e però i soldi li volevano, ma scusate, quando lavoro sono una cacca di cane, perché però quando mi pagano volete parte dei miei soldi perché vivo qui, e no, mamma e papà caro, non potete fare così, e quindi un po' da cattivello vivevo qui, ma neanche sotto tortura ho mai dato di quei soldi un centesimo. Ah, certo che avrei potuto, ma neanche morto dopo che mi trattano così. Ecco, Claudio, 46 anni, abbiamo sentito, vive coi genitori, lavora saltuariamente, viaggia, ma le sue aspirazioni chiaramente non sono state soddisfatte. Lui considera giusto non contribuire in nessun modo alle spese. Stefano Calore è psicologo, psicoterapeuta, esperto di sostegno alla genitorialità. Buongiorno, buongiorno dottore. Cioè, cosa vuol dire esattamente? Il suo lavoro è quello di... Esperto di genitorialità, nel senso che io mi trovo ad aiutare famiglie, quei genitori che si trovano in delle situazioni di conflitto con i loro figli. Ecco, esatto. Questo che abbiamo appena sentito è un caso limite rispetto alla sua esperienza? Ma ahimè, un caso limite mi risulta difficile dirlo, nel senso che mi sembra che ce ne siano parecchi di questi casi, di chi anche a una certa età difficilmente riesce a costruire un'indipendenza economica tale da poter permettere poi di svincolarsi completamente dalla famiglia di origine. Però Claudio, Claudio ha sentito, il protagonista della nostra storia, si definisce cattivello. Ma certo, è solo quello o c'è di più dal suo punto di vista? Cattivello io lo traduco con questo: qual è la mia soluzione, qual è la soluzione che propongo, perché effettivamente mi sembra che ci sia poi nella relazione con i suoi genitori un conflitto certo, che se ho capito bene è noi genitori pensiamo che tu debba dare un contributo, come si faceva anche abitualmente, no? Certo. In una generazione magari precedente alla mia era un po' un'abitudine questa che c'era nelle famiglie, che il figlio portasse poi anche un aiuto, se un poteva, aiuto economico, certo, alla famiglia, certo. Ma quindi Claudio, qui... Claudio ha ragione o torto? No, non beh, credo Claudio che si possa dire anche, con certezza. Io mi sento però veramente tirato per i capelli dalla situazione economica che riesco in qualche modo a conquistare fuori da casa, e quindi credo che poi il suo disagio nasca anche da questo, certo, una sensazione di non sentirsi completamente realizzato e inserito nella società anche con il lavoro che fa. E quindi si sfoga un po' anche nell'essere cattivello coi genitori in qualche modo. Temo proprio di sì, che dovrebbe essere aiutato, facilitato nel raggiungere una maggiore realizzazione, questo consentirebbe poi anche di esprimere una diversa modalità di risoluzione del conflitto con i genitori. Temo che alla base ci sia questo. Certo, ecco dottor Calore, da un figlio che è un caso che è limite ma non è limite come dice lei, passiamo a sentire la storia di una madre. Mio figlio non ha mai avuto bisogno di andarsi a cercare il lavoretto, perché durante gli studi gli davo un buon mensile per mantenersi agli studi e per le sue cose. E anche quando ho finito, ho trovato da lavorare a un buono stipendio, io ho lo stesso darglielo. Lui mi ha detto di no, che ne ha abbastanza, capito? Però io glieli metto lì sul comodino e basta. Io ci tengo perché magari si leva qualche sfizio in più. Mi sembra anche giusto, perché non aiutare i figli se uno ha la possibilità? Fa tutto da solo, parte lavare e stirare. Che quello ci penso io. È figlio unico, iniziato fino all'anno scorso, intorno ai 32 anni ha imparato, anzi, deve ristrutturare casa, speriamo che faccia anche quello e che poi vada. Io non vedo l'ora che lui vada. Prima non lo sapeva, ma adesso sta bene da solo. Ecco, dottor Calore, anche questa è una mamma normale o particolare? Guardi, chiedere a me poi che cos'è normale, io difficile, credo che ogni caso, facendo lo psicologo, è difficile, certo. Mettiamolo in un altro modo, insomma, troppa assistenza, perché mi sembra che sia il caso, non rischia di soffocare, di essere uno degli elementi che impedisce poi la crescita? Se andiamo un po' a vedere qual è il ruolo del genitore, e anche qual è poi il compito finale del genitore, è quello di facilitare il figlio nel crescere e diventare autonomo e responsabile. Appunto, se il genitore diventa anche troppo protettivo, allora questo potrebbe essere non un elemento facilitante nello sviluppo, ma addirittura ostacolante. Ecco, ma sono molti casi così, come secondo questo che abbiamo sentito. Ce ne sono parecchi . E questo è dovuto anche moltissimo, a parte a quell'equilibrio delicato che c'è all'interno della famiglia, dove bisogna anche capire proprio nello specifico qual è l'equilibrio che si cerca, per cui anche lo svincolo dal nucleo genitoriale è un momento particolare che va facilitato, perché c'è chi vuole trattenere in qualche modo il figlio perché ne trae un qualche tipo di vantaggio. Un'identità, anche un'identità da qualche parte, soprattutto nei casi di separazione, no? Spesso nei casi di genitori separati, divorziati, lo scenario si complica perché c'è un senso di colpa che interviene. Sicuramente, ma anche mi domando quale tipo di conflitto, di base conflittuale ci possa essere che interviene, visto che poi i genitori si sono separati e hanno dovuto gestire un conflitto importante, una separazione importante. E quindi attraverso il figlio ci può essere anche un desiderio di rivalsa di uno sull'altro, in qualche modo. Questo spesso accade, ahimè, perché poi come si risolve il conflitto non è molto semplice, sembra risolvere il conflitto con una risoluzione dove tutte le parti coinvolte escono vincenti, spesso c'è qualcuno che invece ne esce perdente. Ecco, ma siamo noi italiani a essere così particolarmente legati a questa figura di questa mamma che tutto fa, tutto può, ma però anche spesso blocca la crescita e lo sviluppo? In parte concordo con lei, sembra un po' che in questo momento storico ci siano dei paesi che sono un po' più veloci nel facilitare questo processo, no? Noi italiani in questo momento, però se ritorniamo al discorso di prima, dobbiamo fare anche una valutazione globale. Certo, c'è la crisi, eccetera, naturalmente, della crisi, ovviamente. Ma, insomma, ma per cercare di parlare di cose più concrete possibile, dottor Calore, per chiudere, c'è un definibile confine in qualche modo tra l'aiutare i figli a realizzare le proprie aspirazioni e aiutarli anche a affrontare la realtà, però dall'altra parte? Secondo me è molto importante aiutare i figli a fare questo, un esame della realtà, che quindi significa anche facilitarli nell'esplorazione, identificazione dei loro talenti da una parte e quindi anche di ciò che vogliono aspirare a fare nel loro ruolo lavorativo, ma dall'altra parte anche vanno aiutati a confrontarsi con quello che è il mercato del lavoro, certo, con quelle che sono le possibilità offerte, e anche vanno aiutati a fare un bilancio economico. Vuoi fare l'insegnante? L'insegnante ti permetterà di ottenere questo tipo di stipendio? Che tipo di vita vuoi costruirti con questo stipendio? Quali sono le tue aspettative? E facilitarli anche nell'orientamento di quello che c'è rispetto a ciò che offre il mercato del lavoro nella realtà. Se un conto è il lavoro ideale, è quello possibile. Ecco tantissime le reazioni, ridò il numero 800240024 per le telefonate, 349-238-6666 gli sms, dicevo tante reazioni, la sostanza è mandateli a lavorare. C'è Alberto Arlotti che dà una sintesi di quella che è stata la sua educazione, dice: mio padre mi ha educato col motto tutto quello che ti accade nel bene e nel male è rispettivamente merito tuo o colpa tua. Una sintesi estrema, ma che un pochino prende il senso, rappresenta il significato di quasi tutti i messaggi. Franco da Roma intanto. Franco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io racconto la mia esperienza. I miei figli, quando... Lei quanti anni ha? Che cosa fa? 69 anni. Va bene. E io sono un imprenditore. Sì, dica. I miei figli, quando non studiavano bene, io immediatamente ho interrotto la paghetta. Uno è andato a portare le pizze, a fare il cameriere, ma non... Certo. Non esiste. San Paolo dice: chi non lavora non mangi. E questo principio, secondo me, è sacrosanto. L'importante è che ci sia il lavoro. Se non hanno diritto alla paghetta. Va bene, grazie della sua testimonianza. Alla fine, insomma, sono i figli che non se ne vanno, Mario, e i genitori che non sono capaci di farli andare. Pagano il prezzo poi di un'educazione che... In fondo, da dopo il 68 ha deciso che i figli e i genitori erano amici, non è quello il punto. No, che amici, niente. Cioè, il dovere di fare i figli, di essere figli, è il mestiere di genitore. Sono due cose molto difficili. Io penso che da quello che è emerso nella trasmissione, anche i messaggi tantissimi appunto che stanno arrivando, è un tema, ma proprio enorme. Sì, e sì. Io penso questo, che manchi l'educazione al lavoro. Io da ragazzino ho fatto di tutto. Sì, ho lavorato in campagna, ho fatto qualsiasi roba. Io a 18 anni ero indipendente. Cioè, come se perché me l'hanno insegnato come prima. Come se il benessere fosse diventato simbolo di indebolimento. Sì, sì, diventi un mollaccione, questa è la verità. No, un po' diventi, un po' ti fanno diventare. Certo. Ecco, Pietrangelo, genitori, si è per sempre o c'è un momento in cui si smette di essere figli? Guarda Giovanni, mio padre è venuto a mancare e io mi sono accorto, e me ne accorgo sempre di più, di ripetere i suoi gesti, il suo passo, il suo sguardo e credo anche il suo pensiero. E allo stesso modo penso di essere genitore e figlio contemporaneamente e immagino che lo stessa impronta adesso io la ritrovo nei miei figli. Ah. E quel che trovo nei miei figli è lo sguardo, il passo, il gesto di mio padre. Lavinia da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi dica tutto. Parto con il fatto che non mi sono mai sentita una figlia modello. Quanti anni ha? No, scusi, sì. Che cosa fa lei, signora? Allora, adesso seguo quello che era il mio lavoro ideale, ma... Ah, cioè? Sono una tatuatrice. Una? Però, ovviamente, per partire con questo lavoro ideale, cioè, serviva un'accademia. E ha figli? Un'accademia. E ha figli? No. No. Ok. E allora cosa voleva raccontarci? Io e mia sorella siamo andate via di casa praticamente a 18 anni. Certo. Concomitanza con la fine del liceo abbiamo iniziato piccoli, certo, lavori stagionali. Sì. Ognuna di noi ha un lavoro ideale, voleva fare un lavoro ideale, però sì, ovviamente non volevamo chiedere ai nostri genitori un supporto di essere sostenuti per queste cose. E vi siete arrangiate? Ci siamo arrangiate, abbiamo fatto altri lavori e poi nella fase transitoria tra il lavoro che facevamo e quello ideale siamo ritornate anche a casa facendo lavori part time, però dando un contributo simbolico dentro casa nostra. Bene, perché era giusto per noi, era giusto così. Grazie. Mara da Napoli. Mara, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Dunque, mio figlio lavora, non è che non lavora, mio quanti figlio anni lavora, ha? È un dentista. Quanti anni ha, scusi? Gli ha messo un ottimo studio dentistico nella strada principale, io sono separata, però mio marito continua a mantenerlo, 200 euro al mese per mangiare, lavatura, stiratura, non caccia una lira, persino le caramelle mamma le compri tu. Non lo so, o non lo vogliono capire. Fin quando era giovane, piccolo, non teneva lavoro, va bene, ma adesso lavori e sta ancora qua. Vabbè, lei non gliele compra e lo cacci. Lo cacci, signora. Mario, c'ha idee chiare. Non ho coraggio. Allora, signora, non si lamenti. Se non lo caccia, non si lamenti. Ma mi fa uscire pazzo sta cosa. Poi c'è un altro aspetto, naturalmente, un altro aspetto che è la diversità di vedute appunto sui figli tra madre e padre. Ecco, ancora una volta tutti i nostri progetti che vanno all'aria. Ma come puoi pensare che una coppia con tre figli possa vivere in due camere e cucina, Ma amore mio, tu parli come se fossero tre lattanti. Federico già guadagna quello che guadagno io dopo 30 anni di lavoro. Sì, lo so. Maria Carmela si sposa fra 15 giorni. Cristiana se ne va in America, all'università. Hanno sempre bisogno di noi. Ma non è vero, sei tu che hai bisogno di loro. Tu, sempre con sti figli, i figli, sempre. E cosa vuoi fare? Metterli in mezzo a una strada per fare il comodo nostro? Ma che dici? Ma quando vai? Ecco, era Virna Lisi nel film... e non se ne vogliono andare. Comunque, in sostanza, c'è ancora Alberto, Alberto da Como. Alberto, buongiorno. Buongiorno, dottor Minoli, io sono Alberto. Diciamo che la mia sventura di ex imprenditore morta 2 anni fa per la crisi e la globalizzazione mi ha toccato. E allora il tema? Snervato, perché mi trovavo con una famiglia con 4 figli e tutto da rifare. Mi sono reinventato, abbiamo fatto quadrato in famiglia. Adesso, dopo 2 anni, cominciamo a sollevare la testa. Un figlio in Danimarca che studia e lavora. Una figlia che ieri, oggi sto facendo il passaporto per andarsene a fare una vacanza, no, una vacanza, un lavoro in un... Vabbè, insomma, li ha educati bene, turistico. Si sono... Però in tutto questo, diciamo, mi sento anormale, perché vedo una società dove si parla di unioni civili, di famiglie che si disgregano. Vabbè, ma adesso stavamo parlando del rapporto con i figli. Mi pare che lei, nella sventura, è riuscito a trovare una coesione che ha portato una soluzione. Sì, forse vi ha unito ancora di più, insomma. Sono venuti fuori quelli che ci hanno inculcato i nostri nonni, bene, i nostri genitori. Vabbè. Sono venuti fuori, però capisce anche lei che in una situazione del genere... Quando la vita è dura, parte. È dura, però insomma se si riesce a fare a quadrato, grazie. Insomma, alla fine, Mario, sia da genitore che da figlio, la sostanza, ecco come si fa, più o meno si sbaglia. Sì e no, nel senso sì, se facciamo come per esempio l'ultima signora, sì. Che vabbè, quella è esagerato, voglio dire, scusi, no, lo cacci. Lo deve mandare a casa. Le caramelle sua. Almeno se le compra, le caramelle se le può anche comprare, anche perché fanno male se fa il dentista. Poi, Però è vero che si può sbagliare molto, è vero che è una società complicata e così via. Io però aggiungo una cosa, scusate, nel 1945 questo paese era ridotto in cenere, ed è stato ricostruito dai padri e dai figli che sono andati a lavorare, hanno inventato il boom economico e hanno fatto un grande paese. Allora forse è il caso di riprendere quella cultura del lavoro, della creatività e così via. Esatto. E del dovere, perché del dovere. È sacrosanto quello che dici tu, Giovanni. Sì. Genitori e figli non sono amici. No. Scusa, tu ognuno con tuo padre facevi diverso. E tua mamma facevi un amichetto. No, neppure io, non si può fare. Bene, 800 24 00 24, il numero verde, 349-238-6666 l'SMS, un problema naturalmente insolubile, ma noi andiamo in pubblicità. Mix 24. Bravo Secchi, lo scrivono in tanti per il tuo urlo. La Marisa dice: la vita è un dono, l'esistenza va guadagnata. E poi questa è molto divertente. Finché non ho fatto il primo milione facevo anche 4 lavori, poi mi sono permesso di farne uno solo per 70 ore la settimana. Grande. Insomma, lavorare. Pietrangelo, che cosa ci fai sentire stamattina da Arriva. Torino, dove sei al Salone del Libro? Come è andata la presentazione del tuo libro intanto? Beh, è stata una cosa bella, però mi vergogno a dirlo. Vabbè, ti vergogni, te ne farà parlare poi dopo Alessandra Fiori venerdì. Va bene, allora intanto facci ascoltare la tua canzone. Ecco. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying. E allora come da sapete Torino, la metropolitana di Torino non è ancora molto in funzione. No, funziona, non sì, ha guidatore, è in automatico. Piccoli tratti. E quindi può capitare che senza controllore la luna s'attardi in metropolitana fino al mattino, e lì, offrendo il suo chiarore, ha dato luce a un ultimo ballo di un amore impossibile. Se n'è rimasta lì con una notte calma nonostante tutto quell'azzardo di passione, e quei raggi pallidi brillavano di baci perduti, e la cui scia nell'indimenticabile fuori tempo è diventato uno spartito nel sottovoce proprio sui gradini dell'uscita. Insomma, ha chiamato il senatore Agnelli, il fondatore, e ha voluto questo brano per la signora Rosselli con un messaggio. Niente male questo maggiolone Volkswagen. Make sure that you never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will. L'ha presa larga, ma gli ha dato la legnata. Sì, è una legnatona. Senti, e questa settimana che si fa, Mario? Cosa capita? È lunedì e tu in genere ci fai. Cerco di fare il menù. Un quadrettino, se possibile. Prima di tutto, una bellissima colonna sonora anonimo veneziano, Stelvio Cipriani. Allora, che settimana farà Giovanni? Proviamo a fare insieme un po', dare un fil rouge, insomma, cercare di legare le cose che accadono, che sembrano disconnesse, ma in realtà hanno tutte una logica. La cosa più importante è l'Italia, almeno diciamo in partenza, sì, è sicuramente il Consiglio dei Ministri di oggi, sì, Palazzo Chigi, ore 17, fanno un provvedimento per votare un giorno in più. Quindi ci sarà un giorno in più per il primo turno alle amministrative e un giorno in più per il secondo turno, 6 giugno e 19-20 giugno sarà, insomma. E, c'è stato un po' di polemica, eccetera. Sì, secondo me, visto, sì, vabbè, secondo me sì, ha poca importanza, secondo me. L'importante è votare a questo punto. E nel mondo invece è una settimana di avvicinamento alla data chiave del referendum inglese. Mancano 5 settimane. E cose notevoli. Sembra che si stanno scaldando gli animi in Inghilterra. Molto, molto. E cose importanti appunto è Federal Reserve e Banca Centrale Europea pubblicano le minute, cioè i verbali delle loro ultime riunioni, e sono importanti per capire cosa dicono i consiglieri sulla ripresa economica. Stamattina ho visto che c'erano un po' di incertezze, non convince la ripresa americana per esempio. E naturalmente ci sono i temi della crescita, dell'inflazione, dei tassi. In Giappone escono i dati sulla produzione industriale e l'Asia, oggi sapete tutti che con la Cina e le altre economie più o meno emergenti traina il PIL mondiale. C'è una raffica di dati appunto dal Regno Unito da tenere con in grande considerazione: inflazione, mercato del lavoro, commercio al dettaglio. A Sendai in Giappone il 20 maggio si riuniscono i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali, quindi preparano, no? In avvicinamento dello scenario. E poi ci sarà un G7 il 26 e 27 maggio, quindi si sta delineando in realtà un quadro di appuntamenti che ci porta verso la data clou del Brexit. Il giugno sarà terribile. Sì, io penso che è anche interessante lo scontro in America, che prende colori sessuali fra Trump e Hillary Clinton. Mi sembrava strano, no? Mi sembra che si preparano botta e risposta. Sì. Cioè, è come se Trump se lo fosse detto da solo delle sue donne per poter attaccare la Clinton su Bill. Non lo so, Bill. Lo vedremo. Beh, Bill non era proprio. Non era un santo. Salamino. Non si scrive, non esiste. Non si è letto, non è successo. Tornano gli anni 70, ma Maria Elena Boschi ci ha addestrati al sillogismo. Ricordiamo? Chi vota no alla riforma della Costituzione è come Casa Pound. E così, sempre lieti di accogliere le deliziose indicazioni del soave ministro, tutti i giornali, tutti i TG, pur avendo a disposizione un fatto, non ne hanno scritto, non ne hanno parlato, per non farlo esistere. Ti senti solo su questa strada e pensi al sogno che avevi un tempo. Sabato scorso, in via Acqua Bulicante al Prenestino, un quartiere di Roma, un banchetto elettorale di Casa Pound è stato assaltato da 50 giovanotti dei centri sociali armati di bastone e mimetizzati coi caschi. Erano in 6 a presidiare il banchetto di Casa Pound, e 2 dei quali, una ragazza e un disabile al 70%, sono stati trasportati in ospedale. Ma non si scrive e dunque non succede. Fosse accaduto il contrario, 50 esponenti di Casa Pound, mettiamo il caso in visita e usiamo un eufemismo, al banchetto elettorale di una formazione di sinistra, ne sarebbe venuto il viva Maria di indignazione e mobilitazione, oltre ovviamente all'obbligo di sillogismo che consegue sempre il va da sé del dogma ontologico e niente meno il bollino blu dell'AMPI, l'associazione partigiani, che certifica il doc di ogni azione politicamente corretta. La provocazione, infatti, non è quella del bastone, ma della testa staccata. E la testa staccata è colpevole più di ogni altra, se poi la cervice è quella di una ragazza di Casa Pound. E chissà cosa sarebbe successo poi se il disabile, invece che attivista del Babau Casa Pound, fosse stato un militante dei centri sociali di sinistra. Fabio Fazio, mettiamo il caso, ne avrebbe fatto uno special, una diretta TV, l'avrebbe garantita il TG1 e anche le più alte istituzioni, ma proprio le più alte, non potrebbero che alzare la guardia in difesa del più sacro dei sillogismi, quello che Maria Elena Hosky, ancor meglio di Aristotele, ha già indicato. E lo ricordiamo? Chi vota no alla Costituzione è come Casa Pound e dunque per dirami sarà forse il nuovo sillogismo questo? Chi non picchia un disabile è come Casa Pound? Tocca a te, Mario. Ancora una bolla. Una bollettina. Lo Shack, il B52 stamattina, questa è di Franco, devo dire la verità. Franco che è Schipani. Schipani, ah. Per noi è Frank. Sai che a New York lui è una celebrità, no? Assoluta. Sa tutto, vede tutto, dispone tutto e soprattutto si diverte. Anche nei Caraibi. Anche nei Caraibi, questo lo sapevo. E dunque, uno dice, che cosa fa Goldman Sachs, Giovanni? Che mestiere fa? Banca d'affari, no? La risposta è chiara. Sì, però fa anche altro. Questa è la cosa interessante. E su quest'altro, secondo me, bisognerebbe riflettere. Perché compra, tanto per dire, compra e vende gas in quantità impressionanti. Goldman è il settimo trader di gas del Nord America. E sai, uno riflette, ma che mestiere fanno le banche? Sì, sono banche d'affari, sono specializzate, trattano materie prime, però diciamo forse snaturano in qualche maniera il loro core business, dicono quelli che hanno fatto gli studi. Non lo so, è interessante, secondo me va fatta una riflessione su questi giganti che hanno del credito e del debito, che hanno diversificato parecchio. E il ritrattino del capo della divisione gas di Goldman Sachs è molto interessante, perché si chiama Owen West, è un ex marine, ha servito in Iraq, ha scalato il monte Everest ed è anche un romanziere. Beh, un bel personaggio. Un bel personaggione, sì, però allora fategli fare un'azienda che fa solo gas. Il tema della puntata di oggi continua a provocare reazioni. Marco da Udine scrive: io credo che il problema stia nel senso di colpa per il poco tempo dedicato ai figli e si cerca di compensare con l'amicizia. Bah. C'è qualcosa di vero, eh? C'è qualcosa non lo so, di vero. Non sono convinto. Vabbè, non sei convinto, no. E allora andiamo col canzoniere. Come punizione. A tavola noi ragazzi sedevamo in tre reparti. Io dovevo sempre sedere in fondo e mangiare coi più poveri. Potrei forse dimenticare le formiche nel pane della terza classe, ma che noi bambini fossimo divisi in classi mi brucia ancora nell'anima. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Non indossano tute integrali per proteggersi, perché per loro le ferite sono medaglie. Sono i grandi eroi del ciclismo, il vero sport su due ruote. Prova adesso a uscire, lento, più difficile di tutto il Giro d'Italia. Attenzione alla caduta. Ed è da solo veramente un grande spettacolo. Ci siamo! Segui la 99esima edizione del Giro d'Italia. I grandi eroi del ciclismo è il promo ufficiale del Giro d'Italia e noi oggi parliamo di un eroe, un ciclista tedesco vissuto nella Germania di Hitler. Si chiama Albert Richter. Giovanissimo Albert vince nei velodromi più importanti d'Europa. A Roma nel 1932 è campione del mondo tra i dilettanti. Albert è famoso, ricco, adorato dal pubblico, ma non accetta gli ordini del nazismo. Ha un allenatore ebreo, indossa sempre una maglia senza la svastica. Si rifiuta di fare il saluto nazista e, cosa ancora più grave, nel 1939, quando Hitler invade la Polonia, rifiuta di arruolarsi. Capisce di essere in pericolo e decide di abbandonare la Germania, ma è troppo tardi. Alla frontiera con la Svizzera viene arrestato e giustiziato dalla SS. Albert Richter, le testimonianze, i documenti inediti, le verità di comodo. Qui a Mix 24, i gialli della storia, dopo il giornale radio. Mario? Ah, Claudio da Varese per il nostro sì. Canzoniere, buongiorno. Buongiorno. Allora? Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, adesso sì. Ecco, mi dica. Allora, do il titolo? Certo. Colloqui con Mussolini di Emil Ludwig. Giusto? Yes, ha vinto. Vabbè. Okay. Anche questa volta Mario Pietrangelo l'ha mascherata. Sì. Va bene, va bene. Impunito. Vabbè, adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo come sempre le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, marzo 2016. Trapianto di rene da donatore non compatibile. Come sapete, il trapianto di rene ormai è un'attività chirurgica quasi di routine. Il problema è che però spesso non ci sono i reni da trapiantare perché non ci sono i donatori. Allora, una delle possibilità è quella di fare il trapianto da donatore non compatibile, che non abbia lo stesso sistema HLA, il sistema genetico di riferimento, che se uguale permette in genere una tranquilla riuscita del trapianto stesso. Allora si è andati a vedere quanto funziona un trapianto da donatore non compatibile rispetto ad aspettare, perché capita che uno debba aspettare perché non c'è il rene. Meglio aspettare che arrivi, e questo aspettare quali problemi ci causa rispetto a chi è che invece affronta il rischio del trapianto da donatore non compatibile. 1025 trapiantati da donatore incompatibile comparati con altrettanti soggetti più o meno simili a quelli trapiantati che invece rimanevano ad aspettare. Beh, i risultati sono sorprendenti perché a un anno, a 5, a 8 anni, sempre chi è che aveva il trapianto da donatore non compatibile era più in vita. 95, 86 e 77% a 1, 5 e 8 anni rispetto a 90, 59 e 44% a 1, 5 e 8 anni. Ripeto, 77% trapiantato da donatore non compatibile contro 44% di chi aspettava rimangono in vita, quindi conviene trapiantare da donatore anche non compatibile. Beh, questa è proprio una notizia. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci fa sentire oggi? Oggi una canzone per chi all'accusa "tu non hai sentimenti" risponde "oggi non mi dispiacerebbe, ti vorrei sollevare, Elisa".